Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buongiorno cari amiche e cari amici, il tema della giustizia continua a tenere banco nel dibattito politico, sui giornali, è un tema naturalmente che attira molto l'attenzione e su questo tema vi segnalo un libro importante perché è scritto da un protagonista di questo mondo, Michele Vietti, che è il vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, che ha appena pubblicato con l'Università Bocconi La fatica dei giusti, come la giustizia può funzionare, 164 pagine, 16 euro. Vietti è un parlamentare di lungo corso, è stato membro del governo e sottosegretario alla giustizia ed è quindi particolarmente esperto del settore, un settore dal quale proviene perché lui stesso ha fatto l'avvocato. In questo libro ci dà un quadro realistico e dunque un'analisi impietosa sulla situazione della giustizia nel nostro paese e affronta anche alcune ipotesi di soluzione che egli cerca sempre di svelenire dal forte conflitto ideologico che spesso ispira questa o quella proposta. Si parla qui di tanti temi di cui abbiamo spesso sentito parlare sui giornali, il reclutamento, la valutazione dei magistrati, la separazione delle carriere, la paralisi della giustizia, soprattutto nel campo della giustizia civile, che è quella che interessa di più a gran parte dei cittadini, il rapporto tra giustizia ed economia, ossia il rapporto tra l'efficacia della giustizia come fattore propulsivo e di competitività dell'economia nel suo complesso. Nella prefazione a questo libro, il primo presidente della Corte di Cassazione, Ernesto Lupo, sottolinea alcuni aspetti sui quali si sofferma in particolare Vietti, per esempio quello dell'alta litigiosità che domina il nostro paese e quello dell'alto numero degli avvocati. Ma anche di questi temi parliamo adesso con l'autore. Buongiorno a Michele Vietti. Buongiorno. Michele Vietti, allora in questo suo libro lei affronta i temi più caldi della giustizia, almeno quelli che dominano il dibattito attuale. Uno di questi temi è quello della separazione delle carriere, tema sul quale lei esprime una tesi abbastanza fredda, nel senso che ritiene che in fondo ci sia già di fatto una separazione delle carriere e non ritiene che molte delle soluzioni proposte siano o praticabili o risolutive della questione del rapporto appunto tra avvocati, difesa, accusa e sul funzionamento della giustizia. Sì, guardi, quello della separazione delle carriere è secondo me un falso problema. Dopo la riforma dell'ordinamento giudiziario è stata introdotta una incompatibilità per il passaggio tra giudice e pubblico ministero e viceversa, che comporta per chi cambia funzioni dover andare fuori distretto, cioè in gran parte d'Italia cambiare regione. Ora, dato che i magistrati questo lo fanno quando già sono un po' avanti in carriera e hanno una famiglia, dei figli, si sono radicati in un territorio, è molto difficile che scelgano di cambiare paese, di cambiare regione, tanto che i dati ci dicono che la percentuale rispetto al complesso dei trasferimenti di chi cambia funzione si aggira intorno al 3-4%, cioè stiamo parlando di numeri minimi che si contano sulle dita di una mano. Il problema di per sé non esiste, quindi quelli che pensano di affidare a questa soluzione effetti taumaturgici o non conoscono le cose o, come dire, seguono preconcetti assolutamente ideologici. Secondo, il Costituente ha voluto che il pubblico ministero fosse come il giudice all'interno dell'ordine giudiziario perché in questo modo fosse garantita la sua autonomia e la sua indipendenza. Noi siamo in un sistema azione penale obbligatoria dove bisogna garantire che l'azione penale viene perseguita indipendentemente da chi è il soggetto a garanzia del principio costituzionale dell'eguaglianza dei cittadini. Se noi sottraiamo il pubblico ministero alle garanzie che la Costituzione dà al giudice e lo collochiamo in un'area incerta, perché non ho capito bene dove lo vorrebbero mettere i fautori di questa tesi, noi rischiamo di indebolire la sua autonomia e la sua indipendenza e indirettamente l'eguaglianza dei cittadini. Si dice, ma questo consentirebbe al pubblico ministero di non dover più andare con il cappello in mano davanti al giudice come gli avvocati. A parte che, come scrivo nel libro, io ho fatto per tanti anni l'avvocato, non sono mai andato col cappello in mano davanti a un giudice. Ma se il problema è la contiguità, per cui si dice, ma il pubblico ministero fa la stessa carriera, abita negli stessi palazzi rispetto al giudice, ma allora dovremmo separare anche i giudici di secondo grado rispetto ai giudici di primo grado, perché forse è più difficile ribaltare la soluzione di un collega giudice che non respingere una tesi del pubblico ministero, per tacere del fatto di quanti magistrati sono sposati o conviventi con avvocati, e ancora allora anche lì si determinerebbe una situazione di contiguità che non consentirebbe l'esercizio indipendente della propria attività. Insomma, mi sembrano francamente delle tesi un po' strampalate. Ma sulla base della sua esperienza anche precedente, parlamentare e ministeriale, come si spiega appunto che queste tesi che lei definisce strampalate abbiano tanto peso, almeno in una parte politica? Ma perché sul tema della giustizia purtroppo, anziché pensare alle soluzioni realistiche, si parla molto per slogan, perché vede, gli slogan sono la via più facile per affrontare le questioni, perché consentono di non ragionare, di accontentarsi delle ipotesi semplificatorie e di non far nulla per affrontare veramente i problemi. Ecco, uno dei problemi che lei invece affronta nel suo libro è quello dell'Italia, paese di querulomani, cioè l'eccessiva litigiosità che c'è nel nostro paese. Ecco, che idea si è fatta? Perché siamo così litigiosi in Italia? Guardi, ci sono interpretazioni di carattere sociologico, per cui essendo noi un popolo un po' insofferente alle regole e con una certa inclinazione alla illegalità, pensiamo di trovare sempre all'esterno, quindi nella sponda giudiziaria, la garanzia del ripristino della regola violata, anziché cercarla e trovarla in noi stessi, in un'etica personale, in un'etica pubblica. Poi certamente c'è l'effetto anche di una congerie di leggi spesso contraddittorie che si sovrappongono e si contraddicono, soprattutto in materia penale c'è un eccesso di incriminazione, noi abbiamo un numero di fattispecie di reato assolutamente anomala, ogni governo, ogni legislatura, ogni maggioranza di qualunque colore pensa di risolvere tutti i problemi introducendo nuove fattispecie di reato, ovviamente tutto questo serve solo a intasare la macchina giudiziaria e non consente poi di approdare a nulla, ma moltiplica le incriminazioni, moltiplica i processi, moltiplica le controversie. Infatti io penso che l'intervento fondamentale per cercare di snellire il nostro sistema sia quello di far uscire dal processo un gran numero di contenziosi sia civili che penali. Il processo è una conduttura a portata limitata dove non possiamo pensare di infilarci di tutto. Poi c'è il problema che lei affronta con dovizia di dati dell'alto numero anche di avvocati in Italia, che diventa una questione tipo l'uovo e la gallina, nel senso che non si capisce se siano gli avvocati che alimentano il contenzioso o viceversa. Sì, quella è una disputa infinita in cui, come dire, non voglio infilarmi. Certamente il numero di avvocati nel nostro paese è patologico e soprattutto cresce in misura esponenziale anche a danno della qualità, inducendo poi una sorta di concorrenza al ribasso. Io penso sia indispensabile introdurre dei filtri, penso sia indispensabile non tanto passare dal numero chiuso all'università, che ci pone problemi anche rispetto alle normative europee, ma certamente un numero chiuso nelle scuole di specializzazione che poi diventino un canale obbligato per accedere all'esame di Stato potrebbe essere una buona soluzione. Ecco, su tutte queste questioni che sono poi di carattere tecnico, secondo lei quanto incide questa idea, impressione, valutazione, diciamo le parole che vogliamo, della politica di essere violata nella propria autonomia da parte della magistratura? Secondo lei si possono ripristinare dei rapporti più funzionali tra politica e giustizia, tra politica e magistratura? Io lavoro per questo e anche questo libro vuole essere un piccolo, modesto contributo nella direzione di un rasserenamento del clima. In un Stato ben ordinato, politica e giustizia si reggono l'una con l'altra e non possono e non debbono delegittimarsi, perché qualunque opera di delegittimazione alla fine diventa un boomerang che si ritorce contro chi la fa, dando agli occhi dei cittadini l'impressione che sono tutte le istituzioni nel loro complesso che non sono credibili. La giustizia è la condizione indispensabile perché ci sia la convivenza civile, perché senza presidio di legalità che la Costituzione affida ai giudici non c'è una convivenza pacifica, non c'è il rispetto delle regole, per cui la giustizia e i giudici devono essere rispettati. Ovviamente non devono invadere il campo altrui, ma per far questo bisogna che la politica presidi il proprio con autorevolezza e credibilità. Bene, grazie a Michele Vietti, autore della Fatica dei Giusti. Buona domenica. Grazie a voi, grazie, buona domenica. E proprio Giustizia si intitola un'opera letteraria di uno dei grandi del Novecento, lo svizzero Friedrich Dürrenmatt, di cui Adelphi ripropone appunto Giustizia, 212 pagine, 18 euro, tradotto da Giovanna Gabbia. E si parte nel libro del grande scrittore svizzero vissuto tra il 1921 e il 1990 con un omicidio inspiegabile nella buona società di una città svizzera. Conosciamo la vittima fin dalle prime righe del libro, ma anche l'omicida, che è un assai agiato cittadino e nonché stimato membro della comunità, il consigliere Isaac Kohler. Kohler esclude di essere diventato matto, non accampa alcuna scusa, non dà motivazione al suo delitto, viene regolarmente condannato. Ma quando è in galera chiama un avvocato abbastanza fuori dal giro e lo incarica di dimostrare, nel modo in cui gli indicherà lo stesso Kohler, che egli non è il responsabile di questo omicidio. E il libro si sviluppa su questa fattispecie, che è praticamente quasi un trattato filosofico e metafisico sulla difficoltà a riconoscere quella che sia la verità e quindi sulla difficoltà o l'impossibilità ad amministrare efficacemente la giustizia. E naturalmente non mancano, come sempre nelle pagine di Dürrenmatt, degli acerrimi attacchi alla società svizzera, al clima borghese e conformista di quel paese, ma che domina tutti gli ambienti agiati in tutto il mondo. E così questo noir diventa un saggio quasi filosofico all'interno di uno schema narrativo appassionante e ricco di colpi di scena. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba, adesso parliamo di arte e partiamo da uno dei capisaldi della cultura figurativa dell'Occidente, cioè Caravaggio. A lui è dedicata una nuova biografia di Andrew Graham Dixon, che è un giornalista britannico esperto in particolare del Rinascimento. Il libro si intitola Caravaggio, vita sacra e profana, 468 pagine, 25 euro, è pubblicato da Mondadori e tradotto da Massimo Parizzi. Quella del Caravaggio, come tutti sappiamo, fu una vita difficile, spesso da fuggiasco, punteggiata da inchieste criminali che hanno avuto il merito di averci lasciato spesso i documenti più attendibili e credibili sulla vita del grande pittore. Una vita, scrive l'autore, che fu fatta di affascinanti e vividi tableau vivant, scene che repentinamente, come nelle opere del suo contemporaneo inglese William Shakespeare, passano dalla commedia alla tragedia, dalla farsa dozzinale al più cupo dramma. Ricostruire questa vita è difficile, ma il giornalista ci prova inserendo la sua opera nella cultura del tempo, di cui naturalmente Caravaggio fu un grande innovatore. Gli è sfuggito forse nel preparare questo libro che nel frattempo è stato scoperto un documento che attesta la nascita del pittore a Milano e non a Caravaggio, ma pazienza. Sentiamo dal libro questo giudizio riassuntivo sul grande pittore. Caravaggio non fu soltanto il più travagliato, ma anche il più anticonvenzionale dei pittori veramente grandi della tradizione italiana. La sua intera carriera andava contro le regole, contraddiceva provocatoriamente i modelli di tirocinio, committenza e anche concreta pratica della pittura, cui ci si aspettava che un artista di successo si conformasse. Sostanzialmente, Caravaggio era un autodidatta. Può avere colto indicazioni, suggerimenti tecnici imposti come la bottega di Giuseppe Cesari, ma il suo metodo di fondo era empirico. Guardava il modo di cadere della luce e il modo di comportarsi delle persone. Che sia stato costretto a inventare se stesso può spiegare in parte la sua profonda originalità. Il vantaggio di non avere avuto insegnamenti era che non aveva nulla da disimparare. Una volta che ebbe iniziato a trovare la sua strada, Caravaggio dipinse con tale forza, con tale stupefacente senso del dramma, con un senso così profondo dell'umanità che fu sommerso di commissioni prestigiose. La semplice verità è che era un pittore di gran lunga più grande di qualunque suo contemporaneo. E un esempio di questo cambiamento di stile è il quadro della cena in Emmaus, quella conservata a Brera, perché di questo quadro esistono due versioni, quella di Brera e la seconda, dove, scrive l'autore, appunto, il colore è esteso a strati sottili e le tinte sono smorzate, terra e ocra. In tutte le figure i volti sono meno nettamente differenziati che in qualunque precedente dipinto. Molti dei mutamenti tecnici che si notano nella sua opera tarda, spiega, sono connessi alla situazione in cui si trova. A parte pochi casi, cessa di dipingere mettendo in posa dei modelli perché non ha il tempo per trovarli o il denaro per pagarli e dipinge in fretta perché deve sempre partire. A Milano si è appena aperta la mostra Cézanne, les ateliers du midi. È aperta a Palazzo Reale, e dove si potrà visitare fino al 26 febbraio del 2012 il catalogo è pubblicato da Schirà. E in questa occasione la stessa Schirà pubblica un libricino prezioso di Émile Bernard, Mi ricordo Cézanne, 100 pagine, 15 euro, tradotto da Anita, Luigi Compagnone e Luca Lamberti. L'autore fu lui stesso, pittore, amico di Van Gogh e Gauguin, che a un certo punto va a trovare Cézanne, che già ammira moltissimo. Siamo nel 1904. L'autore ha scritto di Cézanne, Cézanne incuriosito dalle cose che ha letto sul proprio conto, riceve il pittore e ne diventa amico. Bernard resterà con Cézanne un mese e da quella permanenza nascerà un'amicizia punteggiata anche da un vasto epistolario fino alla scomparsa del pittore, che avverrà l'anno successivo. Sentite da una di queste lettere del 15 aprile del 1904 alcune righe di Cézanne che spiegano bene la sua pittura e il suo metodo. Aix-en-Provence, 15 aprile 1904. Caro Bernard, permettetemi di ripetervi ciò che vi dicevo. Trattare la natura con il cilindro, la sfera, il cono, il tutto situato in prospettiva, in modo che ogni lato di un oggetto, di un piano, si diriga verso un punto centrale. Le linee parallele all'orizzonte danno l'estensione, cioè una sezione della natura, o, se preferite, dello spettacolo che il Pater Omnipotens Aeterne Deus spiega davanti ai nostri occhi. Le linee perpendicolari a questo orizzonte danno la profondità. Orbene, per noi uomini, la natura è più in profondità che in superficie. Di qui la necessità di inserire nelle nostre vibrazioni di luce, rappresentate dai rossi e dai gialli, una dose sufficiente di azzurri per far sentire l'aria. E sulla mostra di Milano ho chiesto a Marco Carminati di indicarci un quadro che ci può spiegare molto del pittore. Ciao Marco. Ciao Salvatore, ma il quadro che può forse spiegare molto di questo pittore è proprio l'autoritratto che c'è in mostra. Proviene dal Museo d'Orsay, quindi da una delle collezioni più importanti di Parigi, ed è un autoritratto che il pittore realizzò nel 1875, ancora nel periodo in cui Cézanne era vittima designata delle peggiori critiche dei critici, dei giornalisti e del pubblico. Cézanne ha vissuto quasi tutta la sua carriera di pittore incompreso, lavorando da solo, tendenzialmente fuori dal centro di Parigi, nelle campagne soprattutto del Midi francese, nonostante ciò caparbiamente convinto di essere un artista e di avere fatto coincidere la propria vita con la pittura. Questo artista qui si ritrae con uno sguardo interrogativo, no? Che si domanda se dobbiamo perseguire, se la strada è giusta quella che stiamo perseguendo. Alle spalle ha dipinto un quadro impressionista, cioè proprio di quella scuola che in quel periodo stava tentando di emergere tra le peggiori critiche, e lui stesso si dipinge con le dita, la spatola e quasi raramente il pennello, proprio per sottolineare che questa è la nuova strada della pittura. Questo artista, che pensate era di origine italiana, la famiglia di Cézanne veniva da Cesana torinese e il cognome non è altro che la riproposizione francese della parola i Cesani, quelli che vengono da Cesana, era un uomo particolarmente fortunato dal punto di vista della famiglia. Era ricco perché era figlio di un commerciante diventato banchiere, che però fece avere difficoltà al figlio in quanto sognò che il figlio avrebbe fatto la sua stessa carriera, sarebbe diventato un grande banchiere. Quindi ostacolò in tutti i modi la carriera artistica di questo giovane che invece voleva diventare pittore. Tra l'altro fu un padre padrone. Pensate che Cézanne si unì con la propria modella, la bellissima Hortense, ed ebbe un figlio e non osò mai né dire che aveva questa fidanzata né tantomeno che aveva un figlio al padre. Solo quando il padre morì, tra l'altro lasciandogli un'ingente eredità, riuscì finalmente a entrare nel mondo della pittura. E questo sguardo così interrogativo, dicendo ma io starò facendo qualcosa di giusto, si troverà una risposta, pensate, solo nel 1899, quando Cézanne ha 60 anni, quindi per un uomo del tempo a un'età piuttosto ragguardevole, e finalmente si accorgono di lui alcuni grandi mercanti parigini. Ambroise Vollard e Rouen Durel sono i due grandi mercanti che cominciano a sottoporre alla borghesia parigina i quadri di questo artista, i suoi autoritratti, le sue bellissime nature morte e in particolare le vedute della Francia meridionale, che tra l'altro noi vediamo alla mostra di Milano ben rappresentate, e nel giro di 4 anni Cézanne diventa un pittore famosissimo attraverso una serie di mostre che vengono fatte una dietro l'altra, quasi a recuperare il tempo perduto. E Cézanne muore, tra l'altro, come vorrebbe morire un pittore. È nel parco della sua casa, è davanti al cavalletto, viene un temporale, a causa di un fulmine, quindi di un elemento naturale terribile, Cézanne ha una sincope, e perderà i sensi e morirà qualche giorno dopo. In fondo, tutto sommato, per un artista en plein air che ha sempre guardato alla natura e soprattutto ha desiderato lavorare all'aperto, beh, insomma, è un'uscita di scena particolarmente apprezzabile. Il confettino. Restiamo naturalmente nel campo dell'arte con un bel libro di Marion de Char che si intitola Riempiamo questo libro d'arte, pubblicato da Salani, 16 ore e 80, tradotto da Andrea Balconi, l'autrice è notissima illustratrice che insegna qui a disegnare attraverso il riferimento a grandi artisti, ma soprattutto con dei consigli per appropriarsi di tecniche di disegno e di pittura. Un libro quindi che è uno strumento ma anche un'occasione di apprendimento e di divertimento in ogni pagina. E con questo ringrazio Luca Cremonesi in redazione, Carmelo Lauricella in regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, un libro @radio24.it, e il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre riascoltare questa e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona domenica e vi do appuntamento la settimana prossima.